una finestra in casa mia. Io posso vedere il cielo. La mia città di tetti e antenne, di chiese, di giardini. E sai, mi capita di rimanere ad osservare il vento. Che libero e leggero, accarezza tutto quanto. Posso seguire il volteggiare di un pensiero che va a raggiungere l'essenza di un tramonto. Per dilatare e innamorarsi della notte, figlio di stelle e del ricordo di un istante, e poi, da una finestra in casa mia, posso spiccare il volo, raggiungere planando un lembo, di cielo che non scordo. Cogliere un volto che riemerge dal passato, sentire il brivido di sorvolare il vuoto e consolarmi con la luna questa notte, insonne di pensieri e mille sigarette. Qui, da una finestra in casa mia.